attività terroristiche. Ne avete anche voi parlato poi alla radio da poco, per esempio con Altai, con Uchin, storie di combattenti kurde. Cioè, insomma, la volontà di cancellare fa sparire proprio l'intera cultura, l'intera identità di questo popolo. E per questo, diciamo, Ararat assume un significato e la sala cinema d'Ararat assume un significato, insomma, importante per questo popolo che poi vive un momento molto difficile, perché insomma ci sono 7.000 prigionieri politici curdi che sono in sciopero della fame oramai a tempo indeterminato. Non assumono più neanche zucchero, sale, acqua, anche 14 attivisti a Strasburgo, oppure la stessa deputata dell'HDP, Leyla Guven, che è in sciopero della fame da oltre 5 mesi. Sono già 8 i morti nelle carceri a seguito di questa protesta, insomma, e tutto nel silenzio della comunità internazionale, tra cui l'Italia e l'Europa, e sappiamo insomma che ha pagato ben 6 miliardi, anche più, perché il presidente della Turchia Erdogan si prende i profughi che fuggono da fame e da guerra. E quindi, insomma, tra l'altro noi abbiamo, se posso anche prima di concludere, fare un appello, tra l'altro la vostra radio ha più volte seguito e sensibilizzato. Si tratta dello sciopero della fame di Erol Aydemir, ormai siamo al 62° giorno. Il sciopero della fame ad Ararat. Erol è un giovane attivista curdo che sta affrontando una difficile sfida per rompere il muro del silenzio sul popolo curdo e sull'isolamento, diciamo, di Öcalan. Lui ci dice: non voglio morire, amo la vita, ma è il silenzio che uccide. E quindi è un appello rivolto a tutti, stringiamoci intorno a lui, venite ad Ararat in segno di solidarietà. Non solo per la sala cinema, che insomma è importante, ma per Erol soprattutto, perché è un momento molto difficile. Ci lasci anche tutti i riferimenti internet per seguire la vicenda dello sciopero della fame, oltre alla programmazione chiaramente culturale dell'Ararat. Sì, diciamo che tramite anche dei riferimenti per la vicenda di Erol, Rete Kurdistan, diciamo, che si occupa anche soprattutto di questo. Però per i riferimenti per la sala cinema abbiamo anche Centro Culturale Ararat su Facebook. Il prossimo film è un film tratto italiano, ma è un gioiello di poesia, è di Andrea Segre, si chiama Io sono lì. Ed è una storia di un'amicizia tenera tra due immigrati nell'Italia, diciamo, immobile della Laguna, si svolge a Chioggia, dove pregiudizi, pettegolezzi e discriminazione diventano davvero dei macigni. E poi avremo film anche e soprattutto curdi, insomma. Angela, in chiusura, che cadenza ha la programmazione del cinema? Ogni 15 giorni? Esatto, sì, ogni 15 giorni, 2 volte al mese, inizia alle 18:30 con un aperitivo curdo. Posso dire bellissimo, perché oltre che buonissimo, è bellissimo proprio da vedere, pieno di colori. E poi alle 7 inizia la proiezione del film, e questo Benissimo. avviene di sabato. Ok. E allora ricordiamo la rassegna cinematografica Centro Socio-Culturale Ararat, che è partita l'11 maggio con appuntamenti quindicinali, riferimenti ce li hai dati. Un saluto e un ringraziamento ad Angela. Un abbraccio, un in bocca al lupo, a risentirci presto. Grazie a tutti, grazie veramente.